Capitolo dodicesimo. Il ricordo di Allah, rifulga lo splendore della sua luce, e il sublime Corano. Il ricordo di Allah. Disse il profeta Muhammad, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria: Satana è accovacciato nel cuore del figlio di Adamo. Quando il figlio di Adamo ricorda Allah, Satana si ritira. E quando invece il figlio di Adamo se ne scorda, Satana lo tenta. Disse, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria: il modo migliore per il ricordo di Allah è pronunciare la frase La ilaha illallah. E il modo migliore per ringraziare Allah è pronunciare la frase Alhamdulillah. Disse, colui che muore pronunciando la frase La ilaha illallah entrerà in paradiso. Disse, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria, la differenza esistente tra chi ricorda Allah e chi non lo ricorda è quella esistente tra il vivo e il morto. Disse, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria, chi dice per 100 volte in un giorno la frase Subhanallahi wa bihamdik riceverà il perdono dei peccati anche se essi sono numerosi come le onde del mare. Disse, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria, non parlate a lungo senza ricordare Allah, poiché i lunghi discorsi, quando in essi non viene ricordato Allah, induriscono il cuore e in verità l'uomo più lontano da Allah è l'uomo dal cuore duro. Disse, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria, non c'è un gruppo di persone che si siedano per ricordare Allah senza che gli angeli facciano cerchio attorno a loro. La misericordia li avvolga, la pace discenda sopra loro e Allah parli di loro a coloro che stanno vicino a Lui. Il sublime Corano. Disse il profeta Muhammad, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria, il libro di Allah, il sublime Corano, contiene notizie di ciò che avvenne prima di voi e di ciò che avverrà dopo di voi. Contiene altresì il giudizio su ciò che accade in mezzo a voi. Allah manderà in perdizione l'arrogante che lo abbandona e colui che cerca altrove la sua guida sarà fuorviato da Allah. Esso è la fune di salvezza lanciata da Allah, è il sapiente ricordo, la diritta via. Esso ha il potere di impedire alle passioni di fuorviare l'uomo e alle lingue di dire falsità. Coloro che sanno non riescono mai a saziarsene e la continua ripetizione della sua recitazione non produce tedio. I suoi miracoli sono innumerevoli. I jinn, quando lo udirono, non solo non si allontanarono, ma dissero: abbiamo udito una recitazione meravigliosa che guida alla verità e abbiamo avuto fede in essa. Colui che parla con le sue parole dice la verità. Colui che in base a esso prende le sue decisioni decide con giustizia. Colui che agisce attenendosi ad esso sarà ricompensato e chi adesso invita è stato guidato su una via diritta. Disse, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria, chi recita il Corano ad alta voce è come chi fa l'elemosina pubblicamente, mentre chi recita il Corano a bassa voce è come chi fa l'elemosina in segreto. Disse, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria, impara a recitare il Corano e recitalo. Chi, dopo aver imparato il Corano, lo recita nella sua preghiera è come la boccetta del profumo di muschio dalla cui bocca aperta il profumo si diffonde tutto intorno. E chi, dopo aver imparato il Corano, ci dorme sopra, è come la boccetta che contiene il profumo di un muschio, ma chiusa. Disse, che Allah lo benedica e la bengloria, recitate il Corano, poiché esso nel giorno del giudizio intercederà per il suo amico. Disse, che Allah lo benedica e la bengloria, se un fedele recita il Corano senza leggere il libro, ha un accredito di 1000 punti paradiso, mentre se lo recita leggendo il libro, ha un ulteriore accredito fino a 2000. Disse, che Allah lo benedica e la bengloria, chi recita il Corano è come un guardiano di cammelli. Se ci sta attento, li riporta tutti indietro, ma se si distrae, i cammelli gli scappano. Disse, che Allah lo benedica e la bengloria, il credente che recita il Corano è come il frutto del cedro, a buon profumo e a buon sapore. Il credente che non recita il Corano è come il dattero, a buon sapore ma non ha profumo. L'ipocrita che recita il Corano è come il basilico, ha buon profumo ma il suo sapore è amaro. L'ipocrita che non recita il Corano è come la coloquintide, il suo sapore è amaro e non ha nessun profumo. La coloquintide è il cetriolo selvatico. Disse, che Allah lo benedica e la bingloria, chi recita il Corano come si deve ha per compagni gli angeli, ma chi, pur avendo difficoltà di lingua, ce la mette tutta per recitarlo, avrà una doppia ricompensa. Disse, che Allah lo benedica e la bingloria, abbellite la recitazione del Corano con le vostre voci. Disse, che Allah lo benedica e la bingloria, chi recita il Corano per mettersi in mostra è come chi fa l'elemosina per ostentazione.